L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, con questa puntata dell'Altro Pianeta concludiamo almeno per ora il viaggio di Radio 24 negli sprechi alimentari. Ne abbiamo parlato in settimana in tutti i giornali radio del mattino, è tutto disponibile su internet all'indirizzo radio24.it, perché nel corso della settimana, il 5 febbraio per l'esattezza, c'è stata la prima giornata nazionale contro gli sprechi alimentari. A Roma quel giorno si sono riuniti gli stati generali di prevenzione dello spreco alimentare, un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente per raccogliere proposte, indicazioni, buone pratiche per l'elaborazione del PINPAS, ovvero il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che rientrerà nel Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, di cui l'Italia intende dotarsi nella prossima primavera. È un'indicazione che ci arriva dalla Commissione europea, ma anche una conseguenza dell'impegno preso dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, alle Nazioni Unite, quando disse in settembre: l'Italia darà il suo contributo specifico al problema della sicurezza alimentare grazie all'Expo di Milano del 2015, perché sente che è arrivato il tempo di lanciare un nuovo accordo globale sul cibo. E allora cominciamo dal ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, intervistato nel giorno degli Stati Generali da Vincenzo Miglietta. Si tratta di una sfida molto importante perché il nostro paese paga un tributo molto alto sia dal punto di vista sociale, persone che non riescono ad accedere al cibo e cibo che viene buttato, ma anche dal punto di vista ambientale. Produrre alimenti significa utilizzare risorse ambientali e farli diventare rifiuto significa generare dei costi per il loro smaltimento. Tutto questo può essere affrontato non soltanto con una più alta consapevolezza, ma anche e soprattutto con un'innovazione di carattere tecnologico e organizzativo. Lo spreco non è soltanto il frutto del fatto che la gente compra troppo eppure rispetto alle esigenze della famiglia, è dovuto anche a una cattiva organizzazione della filiera, a problemi di conservazione, a problemi nel trasporto. Tutti questi segmenti devono essere affrontati e bisogna fare in modo tale appunto che si possa raggiungere un obiettivo che è anche quantitativamente è molto impegnato, importante. Pensiamo che ogni anno il nostro paese spreca più di mezzo punto di PIL in generi alimentari buttati. Rivedere la metodologia proprio di consumo familiare, ma questo potrebbe anche incidere, potrebbe avere un risvolto anche economico per delle imprese che magari trovano come nicchia di settore proprio questa evoluzione? Beh, certo, l'aspetto economico è rilevante perché, come dicevo, si riducono costi e si consente anche a persone di accedere agli alimenti, quindi anche con una riduzione del prezzo degli alimenti stessi. Ma poi sì, si tratta di produrre dosi massicce di innovazione. Questo obiettivo si raggiunge innovando il modo in cui si conserva, in cui si trasporta, il modo in cui si distribuisce. Tutte cose che possono vedere anche emergere aziende che si specializzano in questo segmento e figure professionali, così come è avvenuto in altri ambiti, pensiamo all'energia, che si sono adoperate appunto perché questa riduzione dello spreco, questa riduzione dello spreco anche di risorse ambientali possano diventare valore e quindi possano diventare anche opportunità professionali. Gli Stati Generali di Roma sono stati solo l'inizio del lavoro. Adesso bisognerà raccogliere le idee, farne una sintesi, fare comunicazione su questo tema. A capo del gruppo di lavoro che si occuperà di tutto questo, il Ministero ha indicato Andrea Segre, docente della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, grandissimo esperto della materia, anche perché fondatore e presidente di Last Minute Market, una delle più riuscite spin-off universitarie italiane che ormai da anni sviluppa progetti di recupero di alimenti. Andrea Segre l'abbiamo incontrato nel suo studio di Bologna per cominciare a capire quali sono gli elementi su cui fonderà il suo lavoro, con che obiettivi. La nostra parola chiave è prevenzione, recupera finché ce n'è, perché se c'è lo spreco alimentare c'è un problema a monte che dobbiamo riuscire a capire, inefficienze, il mercato deve funzionare meglio, questo è l'approccio, risparmiare delle risorse e poi nel caso destinarle a chi ha bisogno. È una direttiva europea del 2009 e il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, ha colto questo aspetto e quindi ha fatto quello che doveva essere fatto, peraltro entro dicembre, quindi stiamo rispettando una normativa e i tempi europei. E quindi i tempi vi date? sarà il ministro a dirlo, perché poi una volta redatto il piano per tappe dovrà essere il governo e poi il Parlamento a legiferare, se necessario. A fare, secondo me, dall'esperienza che ho, insomma sono più o meno 15 anni che sto dentro il bidone della spazzatura a capire perché c'è tanta roba buona dentro, molta parte legislativa esiste già. E si tratta di costituire una rete efficiente con l'obiettivo di fare la prevenzione, di comunicarla e poi di fissare degli indicatori, questa è la vera sfida, misurabili. Se noi diciamo che oggi, faccio un esempio, ecco, ci poniamo l'obiettivo di qui al 5 febbraio 2015 di ridurlo del 10%, ci ritroveremo il 5 febbraio, che vogliamo sia la giornata nazionale per combattere lo spreco alimentare, e verificare quanto vicini ci siamo andati, ovviamente mettendo in campo a monte una serie di strumenti. 5 febbraio 2015 è l'anno anche dell'Expo, quindi tra l'altro, diciamo, questa campagna giunge in un periodo specifico importante per l'Italia. Potete agganciarle le due cose? È agganciatissima, la vogliamo agganciare nel modo più visibile possibile. Perché? Faccio un esempio. Intanto il tema di Expo è nutrire il pianeta, energia per la vita. Allora, ci dicono i colleghi della FAO che avremo bisogno da qui al 2050, quando saremo 9 miliardi abitanti più, abitanti meno, di aumentare la produzione alimentare del 60%. Però la FAO oggi, stessa fonte, oggi ci dice che un terzo della produzione, trasformazione, distribuzione, consumo agroalimentare mondiale si perde o si spreca. Un terzo, sarà un po' più, sarà un po' meno. Allora è come dire che nel 2050, se dobbiamo aumentare del 60% la produzione, il 20% si perde secco, cioè sarà un aumento del 40%, con tutti i costi. Sprechiamo delle risorse, che senso ha? Quindi l'abbiamo chiamato in modo molto laico, primo non sprecare, cioè è a monte che devi agire, e Expo dobbiamo arrivare molto credibili, il collegamento è perfetto. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, stiamo parlando di spreco di cibo. Oggi lo facciamo perché in settimana c'è stata la prima giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, perché il pianeta, secondo le stime degli esperti, produce sufficiente cibo per la popolazione mondiale, ma un terzo di questo viene sprecato. Con il progetto Save Food, la FAO, l'Organizzazione ONU per l'Agricoltura e il Cibo, vuole invertire la tendenza. Camelia Bucatario è consulente della FAO per lo sviluppo delle politiche contro lo spreco di cibo. Per l'iniziativa che è stata lanciata nel 2011, Save Food, è stata lanciata assieme al partner del settore privato Messe Düsseldorf dalla Germania. Safe Food come iniziativa mira a ridurre l'attuale stimato ammontare di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che vanno perse o sprecate ogni anno globalmente. Questi dati sono forniti dal rapporto della FAO pubblicato nel 2011. Dal lancio Safe Food è stato proprio un partenariato pubblico e privato che facilita il dialogo, lo scambio di informazioni, di buone pratiche, che diciamo facilita questo scambio proprio per raggiungere un'armonizzazione di dati per riuscire ad avere delle soluzioni sostenibili. Come la struttura di Safe Food? Noi lavoriamo su quattro pilastri. Il primo pilastro è la sensibilizzazione del settore privato, del settore pubblico, dei consumatori, della società civile per quello su cui stiamo lavorando, per la riduzione dello spreco e delle perdite alimentari. Nel secondo pilastro stiamo lavorando proprio per la collaborazione e il coordinamento delle varie iniziative che sono state lanciate. Nel terzo pilastro stiamo lavorando per raccogliere dei dati proprio delle filiere agroalimentari specifiche. Per questo noi abbiamo sviluppato una metodologia per la quantificazione delle perdite alimentari e l'abbiamo già testata l'anno scorso in Kenya. I risultati dello studio in Kenya saranno disponibili nel 2014 e pensiamo di continuare a testare questa metodologia in altri paesi dell'Asia e dell'Africa. I dati sono, la raccolta di dati nuovi dal campo è molto rilevante per noi per capire meglio cosa succede a livello della filiera agroalimentare. In questo caso nei paesi in via di sviluppo. Comunque abbiamo già iniziato il lavoro anche nelle regioni che non sono in via di sviluppo, come per esempio nella regione dell'Europa con il progetto chiamato Fusions, dove lavoriamo assieme a 21 partner europei per sviluppare la strategia europea per la riduzione dello spreco alimentare. Perché ovviamente, mi scusi se la interrompo, i problemi nel paese in via di sviluppo e in Europa sono differenti, cioè le perdite avvengono in punti diversi della catena. Ha decisamente ragione. Le perdite nei paesi in via di sviluppo riguardano prevalentemente i piccoli produttori. O quasi il 65% di tali perdite si verifica durante gli stadi della raccolta, post-raccolta e lavorazione. Nei paesi industrializzati invece, ha ragione, gli sprechi di cibo avvengono soprattutto, sembra, a livello della vendita e del consumo. Comunque i dati che noi abbiamo stimato nel 2011 sono stati all'incirca 95-115 kg all'anno fra l'Europa e Nord America, e invece a livello proprio del consumatore fra 6 e 11 kg soltanto per sud e sud-est asiatico e Africa subsahariana. Il quarto pilastro, mi sa che non l'abbiamo più, che l'ho interrotta, quindi siamo rimasti indietro eravamo al terzo, quindi i dati provenienti dalle filiere agroalimentari. Il quarto e ultimo qual è? Il quarto pilastro di Safe Food è il supporto tecnico e manageriale per sviluppare le capacità proprio degli attori e delle organizzazioni coinvolte nella riduzione della perdita del cibo. Noi stiamo come team, stiamo lavorando direttamente con dei progetti e con i paesi che vogliono migliorare la raccolta dei dati, l'analisi dei dati e poi implementare dei progetti per la riduzione dello spreco alimentare. Sono tantissime le attività della FAO in questo campo. Ricordate, Save Food è il nome di questo progetto internazionale di cui abbiamo appena parlato. Savefood.org è l'indirizzo internet a cui reperire tutte le informazioni del caso. A questo punto abbiamo sentito la FAO, il ministro Orlando, il professor Segre, capo della task force del ministero per mettere a punto il PIMPAS, il piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che rientrerà nel piano nazionale di prevenzione dei rifiuti. E allora sentiamo, proprio sulla questione rifiuti, uno degli autoconvocati a Roma agli Stati Generali contro gli sprechi. È Roberto Cavallo, fondatore e presidente di Erica, società cooperativa specializzata in educazione, ricerca e comunicazione ambientale, che lavora molto sul tema dei rifiuti. Cavallo è anche autore di vari volumi su questo tema, l'ultimo è 10 azioni per zero rifiuti. Rifiuti zero, secondo me, è davvero un po' l'orizzonte da raggiungere, e rifiuti zero passa prima di tutto tramite la riduzione degli stessi. Nella nostra pattumiera, come dicevi, un terzo è rifiuto biodegradabile umido. Quasi la metà di questo è scarto alimentare che sostanzialmente ha tre origini: la grande distribuzione o la distribuzione in generale, le mense, la ristorazione collettiva e casa nostra, i nostri frigoriferi, le nostre mense, e dobbiamo partire proprio di lì, cioè ridurre i rifiuti a casa nostra. Questo ci aiuta sostanzialmente anche a ridurre le necessità di raccolta, la necessità di impianti per trattare quei rifiuti. Lasciatemi dire con un motto: meno rifiuti vuol anche dire alleggerire il portafoglio, cioè spendere di meno. Questo senz'altro per i comuni e in futuro ci auguriamo anche per i cittadini, no? Perché al momento le cose non sono proprio così, però ovviamente una riduzione complessiva dei volumi fa sì anche che esista una riduzione poi dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. Quali azioni possiamo intraprendere che ci possano aiutare nel percorso di riduzione degli sprechi e dei rifiuti? Sì, come dicevo, gli sprechi alimentari, siamo sulla parte della distribuzione, molto è stato fatto e si sta facendo attenzione alle date di scadenza, cercando di reimmettere al consumo prodotti ancora buoni anche per i meno abbienti, abbiamo una legge che ce lo consente, molte attività sono state fatte. Ridurre gli sprechi nella ristorazione collettiva, qualcosetto è stato fatto, pensate un po' al doggy bag di Michelle Obama, ma sempre più anche in Italia. Forse qualcosetta si potrebbe fare anche facendo attenzione al dosare le porzioni e le calorie di cui abbiamo necessità. Spesso, soprattutto nelle mense pubbliche, si tende a sovrabbondare nelle razioni e nelle porzioni, e poi succede che si lascia moltissimo nel piatto. Ben venga la raccolta differenziata, ma ripeto, è sempre meglio ridurre alla fonte. Tantissimo invece ancora da fare a casa nostra, anche perché non ce ne rendiamo conto, ma noi buttiamo letteralmente nella pattumiera centinaia di euro, diciamo fra i 300 e i 500 euro all'anno di prodotti alimentari che abbiamo acquistato e per una ragione o l'altra poi buttiamo nell'immondizia. Io do sempre un consiglio molto pratico: quando si va a fare la spesa, si torna a casa, si guarda negli occhi il frigorifero, lo si apre, lo si svuota di quello che c'era prima, si ripone la nuova spesa e davanti si mette quello che c'era prima. In questo modo, diciamo, non nascondiamo le cose che già c'erano e che tendono ad ammuffire, come il passato di pomodoro piuttosto che la fetta di salame piuttosto che il formaggio. Ecco, questa è una piccola pratica che ci aiuta a ridurre gli sprechi. Tra le suggestioni che la cooperativa Erica da te fondata manda a Roma per, in occasione di questa giornata nazionale contro gli sprechi alimentari, c'è anche quello della responsabilità estesa del produttore all'organico. La conosciamo questa responsabilità per molti altri materiali, diciamo così, tra virgolette, e sull'organico come andrebbe intesa secondo voi? Beh, intanto bisogna proprio dare avvio al concetto, perché l'Unione Europea con la direttiva 98 ci chiede di applicarla. In qualche caso è stata la stessa Unione Europea a emanare direttive che includono una responsabilità estesa, pensiamo agli imballaggi, ai rifiuti da apparecchiature elettroniche, in altri non se ne è proprio mai parlato. Noi dobbiamo muoverci come Stato membro, e certamente tutto il mondo dell'organico non è mai stato abbordato, non esiste una direttiva sui biorifiuti e men che meno una responsabilità estesa. Allora, saltando la parte, diciamo, dell'agricoltura e del campo, che di responsabilità ne ha fin troppa, certamente un'applicazione a tutte le fasi intermedie prima del consumo, quindi la commercializzazione primaria e la distribuzione, andrebbero in qualche modo coinvolte nel principio di responsabilità estesa, come si fa con gli altri, quindi applicando un'ecotassa che consenta e permetta la responsabilizzazione. Pensate ad esempio alla cosiddetta doppia etichettatura, che dà da un lato il consumare preferibilmente, che significa avere ancora molto integre i sapori e diciamo le caratteristiche del prodotto, ma c'è poi una scadenza vera e propria. Da questo indurrebbe a una responsabilità maggiore il produttore e il distributore. Poi ce ne sono molte altre, compresa, come dicevo, l'intera catena di commercializzazione e distribuzione fino a casa del consumatore. Per il momento, ma come dicevamo solo per il momento, ci fermiamo. Torneremo presto nei giornali radio e in questa trasmissione ad occuparci di sprechi alimentari e riduzione dei rifiuti anche da un punto di vista europeo, perché il problema non viene affrontato solo a Roma ma anche a Bruxelles. Intanto vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.